GR Vetro, il sole 24 ore. Caso Ruby, la giunta della Camera rinvia l'esame a martedì prossimo. Afghanistan, la russa, parlerò con Petreus, ci vuole più sicurezza. Italia è un paese sempre più vecchio, secondo l'Istat preoccupa l'inattività più della disoccupazione. Calcio questa sera il derby di Roma, rugby il giallo sulla sostituzione del CT degli azzurri. Buona giornata da Simone Spezia e dalla redazione. In apertura dunque torniamo sullo scandalo sessuale che sta coinvolgendo il Presidente del Consiglio. La Giunta per le autorizzazioni della Camera ha deciso di rinviare a martedì prossimo l'esame degli atti sul caso Ruby. A chiedere il rinvio è stato il relatore del provvedimento, Antonio Leone, mentre Berlusconi ha di fatto preso la decisione di non presentarsi davanti ai magistrati. Sentiamo cosa può succedere dal lato giudiziario nelle prossime settimane. Le parti in causa lo sanno già perfettamente, saranno mesi di battaglia e di scontro ai massimi livelli, come fu già ai tempi dei processi Imisir, SME e Lodo Mondadori. Questo weekend dunque il Premier non si presenterà al Palazzo di Giustizia di Milano, declinando l'invito a comparire della Procura e a questo punto, nel giro di un mese al massimo, come previsto dalla legge sul rito immediato, i PM inoltreranno al GIP la richiesta direttamente di rinvio a giudizio, sulla base di quelle prove che ritengono evidenti. Il possibile approdo in aula del caso Ruby potrebbe quindi quasi coincidere con la ripresa dei processi Mills, Mediaset e Mediatrade, scongelate dal verdetto della Consulta sul legittimo impedimento, e gli scontri intorno ai primi mescolarsi con quelli dell'ultimo. Se infatti nei procedimenti già incardinati si preannuncia un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, con probabile ritorno alla Consulta sulla valutazione degli impegni volta per volta indicati dal Premier, il primo fronte del caso Ruby sarà la competenza territoriale. Un braccio di ferro tra gli avvocati di Berlusconi, che ritengono il Tribunale dei Ministri o al massimo Monza, deputata ad esaminare il caso, e la Procura Meneghina, che cerca di andare avanti. Intorno a competenza e imparzialità dei giudici si infiammarono già in passato alcune delle tante battaglie giudiziarie e allora come oggi, da una parte c'è Silvio Berlusconi, dall'altra il PM Ilda Boccassini. Raffaella Calandra, Radio 24, Sole 24 Ore. E naturalmente interviene ancora la politica, a partire dall'opposizione, in diretta a Montecitorio Elisabetta Fiorito. Sì, proprio così. Simone, abbiamo detto della giunta dell'autorizzazione a procedere, rinviata alla Camera sul caso Ruby a martedì prossimo, una richiesta del relatore di maggioranza Antonio Leone, che ha chiesto qualche giorno a disposizione per esaminare le carte e fare la relazione, lo ha spiegato il presidente della giunta Pierluigi Castagnetti, ma intanto non si placano le polemiche anche dopo che il premier Silvio Berlusconi ha negato rapporti sessuali con Ruby. Sentiamo il segretario del Partito Democratico Pierluigi Bersani. Il nostro Presidente del Consiglio è venuto meno alla Costituzione, ha tradito la Costituzione su cui ha giurato. Non c'è bisogno della magistratura per arrivare a questa conclusione. Ma noi vorremmo parlare del Paese, vorremmo parlare di lavoro noi vorremmo parlare, di lavoro. È 2 anni che cerchiamo di parlare di lavoro e siamo sempre attorno ai problemi suoi. Questa è la questione italiana, sempre attorno ai problemi suoi. Io spero che qualcuno se ne accorga, anche dal lato di chi ha sostenuto il centrodestra. E da parte della maggioranza lo stesso relatore in giunta, Leone, accusa la Procura di Milano di svolgere un ruolo politico. Per il Premier sono stati impiegati più agenti che per incastrare Al Capone. Solidarietà al Premier da parte della Lega, che dopo il silenzio iniziale torna a difendere Berlusconi. Il capogruppo a Montecitorio, Marco Reguzzoni. Negli ultimi 3 anni, da quando siamo stati eletti, l'opposizione chiede le dimissioni di Berlusconi ogni 15 giorni, quindi direi che non è un fatto nuovo. Noi rispondiamo coi fatti. Ieri è stata approvata in via definitiva un'importante legge, la legge Zaia, sull'etichettatura dei prodotti alimentari, che cambierà anche le nostre abitudini e cambia anche il destino delle aziende e dei nostri lavoratori del settore, che sono milioni. A noi interessano fatti e sostanza. E per il momento qui da Montecitorio è tutto, a voi studio. Grazie dunque Elisabetta Fiorito, e della legge della quale parlava Reguzzoni torneremo a parlare tra un attimo. Nel frattempo restiamo a Montecitorio, dove nasce il famoso gruppo di responsabilità. Partirà nel pomeriggio la lettera a Gianfranco Fini dei cosiddetti responsabili con cui si ufficializzerà la nascita del nuovo gruppo alla Camera. Gruppo che nelle intenzioni dei firmatari dovrebbe garantire a Montecitorio una maggioranza più forte al presidente del Consiglio Berlusconi. In 20 hanno già firmato, spiegano, Romano, Partito Italia Domani, Iannaccone, Noi Sud, ma siamo in trattativa con un 21esimo, soddisfatto dal PDL il capogruppo Cicchitto che spiega. Oggi nasce un altro gruppo parlamentare a sostegno del governo e a testimonianza della continuità di questa azione e ci dovremmo poi misurare con i nodi della questione economica e sociale che stanno davanti al Paese. A guidare il gruppo dei responsabili alla Camera dovrebbe essere l'ex finiano Moffa, raggiunto nella sua scelta da Siliquini e Polidori, ed ancora tra i nomi più noti, Mannino e Gaglione, l'ex leghista Grassano, eletto nelle liste PD Calearo, dall'Italia dei Valori Scilipoti, l'ex API Cesario. Al momento non compare nessun nuovo fuoriuscito rispetto al giorno della fiducia, il 14 dicembre scorso, ma dal nuovo gruppo spiegano, dopo che il segnale sarà dato ci saranno nuovi arrivi dagli altri partiti dell'opposizione e così alla fine dovremmo essere almeno 25. Vincenzo Miglietta, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E dicevamo prima che avremmo riparlato della questione della legge sull'etichetta d'origine su tutti i prodotti alimentari, la cosiddetta legge Zaia. Ieri la Commissione Agricoltura della Camera appunto ha votato all'unanimità, ma c'è qualche perplessità soprattutto dall'industria alimentare. Per partire ci vogliono i decreti attuativi, ma il dado è tratto. D'ora in poi non solo l'olio, ma tutti i prodotti alimentari dovranno riportare in etichetta il luogo d'origine e l'eventuale presenza di OGM, organismi geneticamente modificati. Grande soddisfazione per gli agricoltori. Stefano Masini, responsabile ambiente e consumi di Coldiretti. Quest'ultimo fenomeno di crisi delle uova e dei suini alla diossina ha messo in evidenza che l'esistenza di regole di tracciabilità per queste filiere ha consentito di evitare il crollo dei consumi negli altri paesi diversi dalla Germania. Quindi libertà di scelta dei consumatori e libertà delle imprese di competere sono legate al possesso delle informazioni e alla trasparenza delle filiere. Nei principi concorda Federalimentare, ma, sottolinea il direttore generale Daniele Rossi, per le aziende sarà un costo in più. Ad ogni cambio fornitore bisognerà fare e disfare le etichette e i prezzi delle materie prime cresceranno. Non essendoci sufficienti materie prime agricole nazionali, i produttori a quel punto saranno costretti o a dichiarare l'origine estera delle proprie materie prime oppure a cercare di spuntare la materia prima agricola nazionale ad un prezzo più alto. Fino a quando in Europa non vigeranno le stesse regole, chiude poi Rossi, le aziende italiane saranno in affanno. Laura Bettini, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E parliamo adesso del nostro sondaggio di oggi. La Lega propone di boicottare il film su Vallanzasca. Siete d'accordo? I sì sono stati il 44%, i no il 56%. E noi andiamo all'estero adesso. Un altro giovane si è dato fuoco in Kabilia, in Algeria, ieri sera. La settima persona a compiere questo gesto dall'inizio dell'anno, ricoverato in gravi condizioni. Altri episodi simili si sono registrati nei giorni scorsi in Egitto, mentre in Tunisia è in corso un'imponente manifestazione che riguarda naturalmente le evoluzioni politiche degli ultimi giorni. Ci colleghiamo dunque in diretta con l'inviato del Sole 24 Ore, Alberto Negri. Alberto. Ma sta passando un elicottero in questo momento sopra Avenue Bourguiba, mentre si è concentrata una manifestazione che chiede la dissoluzione del vecchio regime, il raggruppamento costituzionale democratico fondato 20 anni fa da Ben Ali. La gente chiede anche un nuovo governo che non contenga le personalità della vecchia guardia. Ora il primo ministro Ghannouchi tenterà di tenere insieme ancora i pezzi di questo governo che è stato appena varato l'altro giorno, un governo di unità nazionale da cui però sono già dimissionari alcuni ministri dell'opposizione. Insomma, la transizione tunisina è ancora tutta da fare. Grazie dunque ad Alberto Negri per questi aggiornamenti. Torneremo all'estero tra poco per parlare di Cina e di Afghanistan, ma invece adesso torniamo all'Italia per parlare degli avvocati del nostro paese che evidentemente hanno qualche problema con l'italiano. Cosa ci si aspetta da un avvocato? Perry Mason insegna arte oratoria innanzitutto, di certo non degli strafalcioni linguistici, tantomeno grammaticali. Ecco perché il Consiglio Nazionale Forense corre ai ripari e organizza corsi di lettura per gli aspiranti avvocati, nella convinzione condivisa che chi non legge non sa scrivere. Nelle 79 scuole forensi verranno proposti testi per arricchire conoscenza e lessico, da Calvino a Eco fino a Schopenhauer e Kennedy. Ma quel vitale, pure da capo! Quel prepotente di Don Rodrigo! Don Rodrigo! Don Rodrigo? Ma perché, ma cosa venite a rompermi la testa? Le prime ma certi discorsi fateli fra voi ragazzotti, umili da fare, con della gente da bene che sa che cosa valgono le parole. Andiamo fuori, andiamo, ma via! Tra deontologia e tecnicismi, questa volta a insegnare il manzoniano a Zecca Garbugli, la categoria certo non gode di buonissima fama. Ecco perché l'iniziativa tra i vecchi della categoria riscuote consensi. Se ne vedono di tutti i colori, molti avvocati leggono solo le pagine sportive dei giornali, ci dice Ettore Randazzo, ex presidente dell'Unione delle Camere Penali, più volte membro delle commissioni d'esame. Legittimo con 2G, un angelo con l'apostrofo, insomma ci sono degli errori elementari. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Siamo quasi in chiusura di questa prima parte, ma prima di tutto andiamo a parlare di cinema con il film di Antonio Albanese che è in arrivo. Diciamolo subito, la somiglianza più clamorosa con Silvio Berlusconi è la comune propensione per il gentil sesso, soprattutto se si tratta di signorine giovani ed esteticamente armoniose. Ma lo sa che lei ha un bel corpo d'assessore? Porteremo barche di pilo, fortissimamente pilo! Era la tua ragazza. Melo, quella ragazza non va bene. Un nave menne, senza tette, anche di culo a scherzo. Onda Calabra. E se anche eccetto la qualunque o minuscolo ex latitante calabrese che si candida a diventare sindaco dell'immaginaria Marina di Sopra e non un tycoon brianzolo a capo del governo, tutte le domande ad Antonio Albanese durante l'anteprima stampa del suo nuovo film Qualunque Mente erano ovviamente sulla politica di oggi. Il mio cetto si può considerare un moderato rispetto a certi politici di oggi, ha detto Albanese, ma se il film fosse uscito 6 mesi fa o 2 anni fa non sarebbe stato diverso. Quando abbiamo scritto la sceneggiatura 2 anni fa e ci siamo detti ma tu pensa che non si usciva adesso. Bene. 6 mesi fa ci siamo detti ma se usciva adesso è un continuo, ma non se ne può più. Anche mio padre l'ha detto, sai, 25 anni fa se usciva adesso è il nostro paese, è il nostro paese. Eppure proprio i recenti guai di Berlusconi possono portare bene al film. Non a caso Qualunque Mente potrebbe approdare in una sezione collaterale del Festival di Berlino, dove ultimo film italiano in concorso fu 3 anni fa Il Caimano di Checco Zalone. Però ad Antonio Albanese non parlate. Non l'ho visto il film, non conosco benissimo Checco Zalone, quindi non lo so. Marta Cagnola, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Le 13:16 minuti e 37 secondi nella prima parte del giornale radio. Siamo tornati sullo scandalo sessuale che sta coinvolgendo il presidente del Consiglio Silvio Berlusconi. Vi abbiamo parlato degli scenari processuali e degli effetti politici e poi vi abbiamo portati in Tunisia, dove si sta svolgendo un'imponente manifestazione anche in queste ore. Infine abbiamo parlato di cinema con il nuovo film di Antonio Albanese. Ora ci occupiamo di Cina. O meglio, di Cina e Stati Uniti, perché sta partendo, ve l'abbiamo raccontato, la visita di Hu Jintao in America, a Washington. Ugo Tramballi, inviato del Sole 24 Ore ad Hong Kong. Buongiorno innanzitutto. Buonasera. Sì, buonasera per te naturalmente. Ti chiediamo come la Cina invece sta vivendo queste ore, che cosa ci si attende. Quindi andiamo dall'altra parte, Ugo. Ma con molta tranquillità, con la convinzione di avere quasi vinto una partita, e questo forse un po' è anche il pericolo che qualcuno pensi, come i cinesi, che il mondo stia già cambiando ineluttabilmente, e qualcuno come gli americani, in genere gli occidentali, che oramai il mondo stia cambiando a favore della Cina e che quindi c'è una specie di pessimismo generalizzato e quindi di paura. Questo fa nascere paura nei confronti di una Cina sempre più forte, sempre più ricca e sempre più ambiziosa, e questo non è mai un atteggiamento positivo per affrontare poi invece un futuro di relazioni che dovrebbero essere, e questo vertice dovrebbe anche cercare di fare, dovrebbero essere invece improntate non sul contenimento l'uno dell'altro, ma invece sulla sulla collaborazione, cioè non ricommettere lo stesso errore della guerra fredda di 60 anni fa. In Cina questi sono problemi relativamente importanti, nel senso che soprattutto qui a Hong Kong, che è sempre una specie di cartina di tornasole di tutto quello che accade in Cina, perché tutto quello che accade in Cina a Hong Kong lo trasforma in soldi, nella sua ricchezza, qui appunto conta il problema che tutti si stanno arricchendo. È anche una questione, per esempio, come il renminbi, la convertibilità o meno, la valuta, quanto deve valere il renminbi cinese. Qui invece a Hong Kong viene percepita come una grande possibilità di ulteriore ricchezza, perché Hong Kong è già diventata e diventerà sempre di più il banco di prova della piena convertibilità del renminbi. Oggi sono andato a mangiare in un ristorantino cinese di Hong Kong, ho pagato in renminbi, mi hanno dato il resto in renminbi. E questo dunque è il quadro e anche un episodio della tua giornata di oggi. Grazie a Ugo Tramballi, inviato del Sole 24 Ore ad Hong Kong, e buona giornata e buonasera anzi per te. Grazie a voi. Allora, noi adesso cambiamo argomento ma rimaniamo all'estero per parlare però di cose italiane, ossia la morte del soldato italiano in Afghanistan. Il ministro della difesa La Russa è intervenuto a Mattino 5 e dice che esporrà al generale Petraeus, comandante della missione ISAF, la necessità che le contromisure prese nella regione dell'Helmand, dove operano americani ed inglesi, siano adottate anche per la zona dell'Ovest, dove sono gli italiani. La Russa, che tra l'altro oggi riferirà alla Camera sull'uccisione dell'alpino Luca Sanna, è intervenuto anche sulla possibilità del ritiro del nostro contingente, paventata da una frase del Presidente del Consiglio che ieri aveva detto: di fronte ad un dolore che si ripete troppo spesso ci chiediamo se serve davvero restare lì. Dunque sentiamo La Russa. La mia risposta finora è la identica risposta che finora ha dato il Presidente del Consiglio, e cioè che siamo lì nell'ambito di una missione internazionale, che verremo via quando lo farà anche il resto della missione internazionale. Non credo, benché ci si interroghi, come ha detto il Presidente Berlusconi, sulla missione, non credo che tocchi a noi in questo momento vanificare lo sforzo di chi è lì da tanto tempo, ma possiamo dettare delle condizioni perché i nostri militari siano messi nelle condizioni migliori. Nel caso specifico io voglio sapere nei dettagli le condizioni in cui vivono in questi avamposti, che sono di pochi metri quadrati, l'ho già chiesto da tempo ma diventa sempre più urgente per un numero forse troppo lungo di giorni, e con un aiuto da parte dei soldati afghani che nel caso specifico è stato l'opposto di un aiuto. Le modalità con le quali è stato ucciso il militare italiano in realtà non sono nuove. Terroristi in divisa che hanno penetrato le maglie della sicurezza, oppure infiltrati dai talebani da tempo nell'esercito di Kabul, o solo un raptus di follia causato dall'abuso di droga? Difficile stabilirlo. L'attentato di ieri, in cui ha perso la vita un alpino italiano, è comunque l'ultimo di una lunga serie di episodi. Negli ultimi 14 mesi più di 20 soldati e agenti di sicurezza del contingente NATO in Afghanistan sono morti così, uccisi a sangue freddo a pochi metri da un alleato afghano. L'ultimo episodio risale a fine novembre, quando un ufficiale della polizia aprì il fuoco contro 6 agenti della sicurezza americani, uccidendoli. Pochi giorni prima altri 2 marines avevano perso la vita nello stesso modo, nella provincia di Helmand. I britannici sono tra i più colpiti. A luglio, sempre a Helmand, un altro militare afghano sparò contro di loro, uccidendone 3 e ferendone 4. 9 mesi prima, una recluta scaricò il suo Kalashnikov contro i soldati inglesi mentre riposavano. 5 le vittime. Non sono ancora casi così numerosi da mettere in discussione le relazioni tra Kabul e NATO, ma sono un campanello d'allarme. La NATO ha fissato la fine del 2014 come la data per cedere la sicurezza agli afghani. Per raggiungere questo obiettivo intende portare l'esercito di Kabul a 240.000 soldati. Oggi sono 100.000 in meno. E la polizia dagli attuali 120 a 165.000 unità. Nonostante lo sforzo dei paesi della NATO incaricati all'addestramento e i grandi progressi raggiunti, l'esercito afghano è una sorta di non esercito, un calderone di etnia in passato spesso in guerra tra loro. Piegato dalla corruzione, dall'analfabetismo che tocca farsi del 70%, dall'uso ricorrente di droga, il processo di selezione delle reclute è in molti casi inefficiente, soprattutto quando si deve aumentare il loro numero di così tanto in così poco tempo. Per avere un esercito efficiente ci vorrà del tempo, probabilmente parecchio più del previsto. Roberto Bongiorni, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Torniamo all'Italia con il rapporto dell'Istat. Difficile descrivere un paese se il paese è complesso e se le differenze tra una regione e l'altra sono così grandi. Ci prova l'Istat con le 100 statistiche contenute nel rapporto Noi Italia, che parla di un paese con un elevato indice di vecchiaia, ma con aree come l'Emilia-Romagna in cui l'immigrazione quell'indice lo sta riducendo. Differenze territoriali che si ritrovano, per esempio, nei dati sulla raccolta differenziata, che passa da livelli superiori al 40% a nord fino al 14,7% al sud. Nel confronto con l'Europa, poi, l'Italia si trova ad avere un rapporto debito-PIL nel 2009 inferiore solo alla Grecia. La spesa pubblica per abitante è di poco al di sopra della media europea, ma con molte differenze tra nord e sud, mentre la pressione fiscale nel 2009 era al 43%, il massimo dal 1997. Nel mercato del lavoro, infine, preoccupa non tanto il tasso di disoccupazione, ma quello di inattività, uno dei più elevati in Europa. Straordinariamente elevato è il tasso di inattività femminile, quasi il 49%. Peggio fa solo Malta. Chiara Di Cristofaro, da Radio Corp e Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E al centro del dibattito economico italiano, sempre in tema di lavoro, resta la vicenda Fiat. Il contratto di Mirafiori, dice il ministro del welfare Maurizio Sacconi, deve essere la base per la definizione del contratto del settore auto. Sentiamolo al microfono di Alessandra Schepisi. Mirafiori e Pomigliano sono un termine di riferimento certamente per la grande impresa, per quella grande dimensione produttiva nella quale più hanno pesato le rigidità ideologiche e che si sono tradotte in sottoutilizzazione degli impianti, bassa produttività e bassi salari. Quindi gli accordi determinano al contrario una piena utilizzazione degli impianti, la crescita della produttività e la crescita dei salari. Più in generale questi accordi aprono la strada a un'ulteriore evoluzione delle relazioni industriali e dei rapporti fra le parti sociali e le istituzioni, che io mi auguro si possano tradurre in nuove intese fra le grandi organizzazioni dei lavoratori e degli imprenditori che il legislatore potrebbe recepire ove le parti stesse lo richiedano, e in una manutenzione straordinaria del patto sociale con il quale si è governata questa difficile transizione in questi 2 anni e mezzo. Così invece il vicepresidente di Confindustria, Alberto Bombassei. Io credo che non cambieranno molto, anche perché credo non ne avremo una grande necessità. Come Confindustria, nell'aprile del 2009 abbiamo fatto un ammodernamento degli assetti contrattuali, quindi buona parte di queste esigenze sono già contenute in quella che è stata la nostra proposta, che forse non è stata accolta nella sua interezza. Quindi credo che se dovessimo esplorare e approfondire quei contratti o quegli accordi, peraltro non firmati dalla CGIL, credo che buona parte delle risposte di ammodernamento le troveremo lì. Poi tutti gli stimoli sono buoni per cercare di ammodernare, per rendere più competitivo il nostro sistema industriale. Credo che quello che fra il lavoro e il capitale deve essere sicuramente una collaborazione non più conflittuale ma molto più collaborativa, e credo che questa sia la migliore risposta per competere a livello globale. Il calcio stasera, derby romano di Coppa Italia. Obiettivo minimo, che tutto fili liscio, nel senso che non ci siano bombe carta, seggiolini che volano, slogan razzisti che fanno ancora più male. Questo derby infatti dovrebbe essere il derby della normalità, con tanta gente sugli spalti, in notturna come ai bei tempi, con 2 squadre che occupano, la Lazio seconda, la Roma quarta, i piani alti del campionato. Vero che si gioca per la Coppa Italia, però la sfida è secca, chi vince passa, l'altra perde un treno che non sarà la Freccia Rossa, ma è pur sempre un traguardo ambito. Anche per ragioni televisive non si giocherà al pomeriggio, si è quindi dato fiducia a 2 tifoserie che in queste occasioni hanno sempre dato il peggio di sé. 1000 agenti, 800 steward vigileranno sulla sicurezza, ma come si sa la polizia a volte non basta, si spera nella voglia di riconciliazione e nel fatto che alla fine entrambe le tifoserie sono abbastanza soddisfatte. Non ci sarà Totti, squalificato per il calcione rifilato a Ballottelli nella finale di maggio, ma tra Ranieri e il Pupone tiraria di tregua. Venti di guerra invece con Vucinic, ultimo della lista degli ammutinati dopo Cesena. Ma forse anche i tifosi della Roma si sono stufati di sopportare le bizze delle loro capricciose soubrette. Dario Ceccarelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ed è tutto per questa edizione di GR24, condotta e curata da Simone Spezia e con in regia... con in regia Roberto Scaltritti, al coordinamento Maria Piera Ceci. Vi avevamo annunciato nei titoli un servizio sulla nazionale di rugby che sembra sulla via di cambiare allenatore, non c'è più tempo, lo sentirete nel GR delle 14. GR24, il sole 24 ore, direttore Fabio Tamburini.